ricordi, un quaderno che conosce segreti, è un amico fidato, ti è sempre unito, ma non lasciarlo, mi raccomando, in mani sbagliate. Ciò che basta è un foglio e un pezzo di carta, armati fine denti e poi apri quella porta, sbagli ad essere indulgente, ma afferra l'attimo fuggente, stanco di venire infangato, negativo, cambiare il mio fato. È il quaderno che scrive ogni passo a lettere cubitali, sottolineando di rosso i capitoli più importanti. Volete essere dei re? No, solamente fanti. Si scorre a livello inferiore, ma con la frase veloce, attrazione anteriore. Se cerchi un significato, se cerchi una motivazione, prendi un quaderno e scrivi una spiegazione, così da capire se fai parte dell'infami o il solito flio di papà e che i miliardari. Risultato: non avere nessuna certezza, conta solo su te stesso e fatti forza, tanto gli altri sono già in allerta. Sei pronto ad uscire in scoperta e affrontare le paure faccia a faccia, illuminare come pile in una torcia, così ormai la porta si è già spalancata ed il quaderno resta con la pagina girata. Un quaderno che ti ascolta ogni volta che lo apri, un quaderno su cui lasciare tutti i tuoi ricordi, un quaderno che conosce segreti, è un amico fidato, ti è sempre unito, ma non lasciarlo, mi raccomando, in mani sbagliate. Domanda: cos'è il quaderno? Risposta: è tipo teleschermo, c'è un rettangolo con mille immagini al suo interno, pronto a spedirti diritto all'inferno, con frasi, visione di gesti storti, preda di innumerevoli torti, fotogrammi sporchi, 1, 2, 3, cambio canale, e intanto il quaderno si è tramutato in giornale, mettendo ogni cosa su per iscritto. Chi è il vincitore? Nessuno, ma sono sconfitto. Unica cosa vietato: abbattersi, mangia avversari e lasciarne soli torsi, per poi accantonare il passato prima di dire un qualcosa. Prendi bene il fiato, perché il quaderno è pronto per essere scritto, ed è la penna che le dà la vita, come il cuore nel nostro corpo. Un quaderno che ti ascolta ogni volta che lo apri, un quaderno su cui lasciare tutti i tuoi ricordi, un quaderno che conosce segreti, è un amico fidato, ti è sempre unito, ma non lasciarlo, mi raccomando, in mani sbagliate. Quaderno è un aggeggio in cui riporre le mie riflessioni, su di cui lasciare le più belle situazioni, è il più fedele compagno di viaggio che trattiene i miei racconti in ostaggio. Così quando il mondo ti sembra che crolli sotto i tuoi piedi, prendi una penna e su di un quaderno spieghi ciò che vorresti cambiare e magari col passare del tempo migliorare. Ti specifico, uso un quaderno, non un diario, e nella testa si accende la lampadina tipo lampadario, e scatta l'idea come scattò a Melissa P. Da un diario passa al libro e poi pensa pure al film, con la cinepresa forse viene meglio, invece per me la cara e vecchia penna sopra un foglio resta nel bersaglio. E allora lancia freccette, ma ricorda, non stai giocando a tirassegno, se spari cazzate paga pegno, devi essere degno, altrimenti vergogna, non puoi confondere acqua santa con la fogna, e piantala. Di rompermi costa lagna, dimmi, scrivi su di un quaderno oppure su di una lavagna. Vedo che hai le idee confuse di quello che stai ascoltando, hai capito almeno una frase. No, adesso stai zitto e buono, mi serve concentrazione per scrivere di nuovo, e prendo il quaderno, un quaderno, un quaderno, un quaderno, almeno lui sì che mi ascolta. Un quaderno che ti ascolta ogni volta che lo apri, un quaderno su cui lasciare tutti i tuoi ricordi, un quaderno che conosce segreti, è un amico fidato, ti è sempre unito, ma non lasciarlo, mi raccomando, in mani sbagliate. Un quaderno, one book, per tutti i fra. Ok, e se ci siete, portate avanti sta cultura, ok?